pietà, Cristo pietà. Guarda quanta gente afflitta, guarda quanta gente smarrita che non trova pace, che non trova gioia. Kyrie, Kyrie, ele, eleison, Christe, Christe, ele, eleison. Signore, pietà.